carriera è stato sempre parlato di chi non aveva mai mai sentito la sua sua parola non faceva la voce poi in una gara la casa la sua carriera le sono forzate ma di una cavalleria di qualcuno ma anche la sua famiglia e la sua casa la sua casa la sua casa la sua casa e la sua casa la sua casa la sua casa la sua casa Thank you.